mezzo agli angeli del cielo. Ci sarà un Dio anche per me, ma adesso non so dove. Fermo, no. tra gli angeli qui in terra. Proprio non è cosa per me.